Mi sono immaginato donna che torna a casa dal lavoro o dall'università o dalla scuola. No, o che magari proprio al lavoro o all'università apre il suo profilo Facebook e ci trova parole a vanvera buttate lì da uomini che scrivono chissà da dove e chissà perché. No, forse il perché è l'unica cosa che si intuisce. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16 e 6, quasi 7 minuti di un lunedì qualunque, 6 giugno del 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Here's the difference to me between boys and girls. Boys fuck things up. Girls are fucked up. È un po' una malattia. Nel senso che la vivo un po' così. Che quando inizio a guardare su YouTube una cosa che mi piace, che sia un film o un videoclip o un programma televisivo, non smetto più. In questo periodo sto guardando a raffica gli spettacoli di un comico americano. Si chiama Louis C.K. Louis C.K. è un signore sulla quarantina, lievemente sovrappeso, ha il pizzo rosso e la faccia rubizza. Nei suoi spettacoli parla della sua vita, ovviamente come tutti, più o meno tutti i comici, parla di sua moglie, delle sue figlie, della vecchiaia e di un sacco d'altre cose. E poi, come molti fanno e hanno sempre fatto, si sofferma sulla differenza tra uomini e donne. Lui inizia parlando dei bambini e poi passa agli adulti. Dice che i maschi, in sostanza, i maschi fanno cose da pazzi. Distruggono gli oggetti, danno fuoco alle case, fanno dei danni che puoi misurare in denaro. Le femmine, invece, sono pazze. Racconta di suo nipote maschio, che è il figlio di sua sorella, che butta della sabbia nel bicchiere di sua madre prima che lei beva. Dice cose che invece le mie figlie non farebbero mai. Perché le donne fanno cose subdolamente più terribili. Cose che ti lasciano cicatrici che poi scopri anni dopo, dentro di te. Cose tipo obbligarlo a rompere una bambola della sorellina più piccola, perché la bambola di quella più grande è rotta e quindi a quella più grande sembra giusto che siano a pari, no? In questa sfida alla rottura. E poi dice che questa differenza può essere usata anche per gli adulti, uomini e donne. Quindi dice che gli uomini fanno dei danni fisici, possono, che so io, strapparti un braccio e buttarlo in un fiume, mentre le donne ti strappano l'anima e ti rovinano la vita. Detto così sembra molto drammatico, eh? In realtà è piuttosto divertente. Here's the difference to me between boys and girls. Boys fuck things up. Girls are fucked up. E questo tema qui, quello della differenza tra gli uomini e le donne, è un tema talmente frequentato che è di una banalità estrema. Però proprio perché è così banale, che per forza contiene qualche verità. Qualche verità ineluttabile. Qualcuno la teorizza questa differenza, altri semplicemente le hanno vissute e quindi le hanno sperimentate. Altri ancora le hanno osservate su delle coppie vicine o su dei gruppi di persone. Oggi però vorrei riuscire a farne un lungo elenco di queste differenze. Se mi piacerebbe che tutte le persone che stanno ascoltando in questo momento ne scegliessero una. E una sola grande differenza. La differenza sostanziale, quella con la D maiuscola. Quella che se vi fermate adesso a pensare 30 secondi, vi viene in mente immediatamente. La cosa che davvero rende diverso il genere femminile da quello maschile. Se la conoscete, io sono qui. E ve lo dico perché mi è capitato di intuirla l'altra sera, adesso vi racconterò meglio, e mi è capitato di intuirla attraverso dei messaggi scritti. Mi sono sentito donna e mi sono sentito anche un pochettino depresso. 80024 0024 per chiamare in diretta oppure 349 238 6666 per mandare un sms. Rischiamo la fiera della banalità, ma anche no, perché in una serie di piccole verità forse riusciamo a tirarne fuori qualcuna. Alberto, l'uomo sicuramente è più pratico. La caratteristica principale della donna è che è logorroica e molto ipocrita. Ah, non è Alberto, è Albert, quindi è una donna. Sofia, le donne sanno fare tre cose contemporaneamente. Alice, questa non l'ho capita. Il pezzetto di cromosoma che completa la Y, trasformandola in X, è quella la differenza. Agli uomini manca evidentemente quel pezzo che permette un sacco di cose. Ma però scusami, la Y, la X è uomo, la Y è donna, giusto? Ci siamo? XXXXXY. Niente, magari sentiamo un genetista. Se c'è un genetista all'ascolto, 80024 0024. Luisa invece dà una spiegazione quasi primitiva. Succedeva ai tempi dei cavernicoli e spiega il perché uomini e donne sono diverse. La donna parlava intratteneva relazioni sociali, conosceva tutti. L'uomo cercava soluzioni invece ai problemi pratici e contingenti. Costruiva la ruota, le lame appuntite per andare a caccia e provvedere al mantenimento della famiglia. Si muoveva per obiettivi concreti e non si perdeva in chiacchiere. Però, se lui veniva a mancare, perché moriva appresso ad un cinghiale infuriato, credo che Luisa sia sarda, ecco che la donna, grazie al miracoloso intreccio di relazioni, amicizie e pettegolezzi di cui sopra, prontamente lo rimpiazzava per continuare a far sopravvivere i piccoli, la famiglia e quindi la nostra specie. Se la sapete qual è la differenza, un messaggio basta o una telefonata 349-238-6666 oppure 800-24-0024. C'è addirittura una differenza anche nelle persone, tra gli, diciamo la sostanziale che ho scoperto, tra gli uomini e le donne che scrivono a io sono qui @radio24.it per prenotare la serata del 23 di giugno, ed è che le donne sono precisissime, cioè io ho chiesto scrivete 23 giugno nel titolo e poi nel testo della mail il numero di persone che verranno alla serata con i rispettivi nomi, e le donne sono puntualissime. Molti uomini invece scrivono ci siamo, però se non mi dite quanti siete poi al marketing mi prendono a testate. Quindi ricordo che la serata del 23 giugno è un giovedì, tutto inizia alle 21, tutto è gratuito, potete venire qui nella sede di Radio 24 alle 21. Per farlo scrivete una mail, nel titolo scrivete 23 giugno e nel corpo della mail scrivete i nomi delle persone che verranno. Invece per la principale differenza tra uomini e donne, come dice Francesca, gli uomini sono sanguigni, le donne sono neuroniche, Cristina, gli uomini sono più leggeri, Catherine, le donne parlano tantissimo, gli uomini non ascoltano, 800240024 oppure 349-238-6666. Siamo arrivati a questo punto perché qualche ora fa ho ripreso i panni di Michela Pesca. Ve la ricordate, no? Michela Pesca. La mia nuova identità di Facebook sarebbe stata Michela Pesca. Non male, no? Una volta trovato il nome mi sono dovuto inventare un paio di caratteristiche. Un'età, una collocazione geografica e poi un indirizzo email. Ma mi ci sarebbero voluti almeno una ventina di amici, no? Per essere credibile. La serata è andata così. Sono andato in cerca di amicizie facili, gente a cui potevo confessare in due righe il mio intento. E un paio d'ore dopo ero pronto per Italo. Ho cliccato sul tasto che chiede la sua amicizia e mi sono preparato al meritato riposo. Il più era fatto. E invece il tempo di guardare in faccia al tizio a cui stavo per soffiare la fidanzata e dopo pochi secondi vedo apparire un numerino rosso. Italo Cambi ha accettato la tua richiesta di amicizia via BlackBerry. Tombola. Era il 1° di dicembre. Mi ero creato un'identità fittizia attraverso Facebook, il social network, come recita la frase sulla home page, ti aiuta a connetterti e rimanere in contatto con le persone della tua vita. A quanto pare però ti aiuta anche a connetterti con le persone che della tua vita non fanno affatto parte. Michela Pesca era un profilo che avevo usato biecamente come esca per trarre in inganno l'allora fidanzato dell'allora non ancora mia fidanzata. E aveva funzionato. Non è un bel metodo, lo so, non si fa. Ma non sempre sapere che le cose non sono sbagliate ci aiuta a non farle. Quindi, ieri sera, ho riaperto il profilo del mio alter ego, Michela Pesca. Erano 5 mesi che non l'aprivo. E quindi ci ho messo un po', soprattutto perché non mi ricordavo la password. E non so se vi è mai successo, quando non ti ricordi una delle ormai 87 password che usi per la posta, per lo screensaver, per il bancomat, l'home banking, il cellulare, Facebook, il codice del nuovo citofono tecnologico, insomma, quando non te ne ricordi una, inizi a passarle in rassegna tutte quante. E ho provato a cercare di ricordare che cosa mi appassionasse in quel periodo. Quindi ho scritto di tutto, Lady Gaga, ho scritto password, ho scritto intercampione del mondo e poi date di nascita di tutti i miei parenti vivi, date di morte di tutti i miei parenti morti. E poi alla fine la soluzione è sempre più stupida ed è sempre più banale di quanto sembri. E finalmente la pagina di Michela Pesca si è aperta e insieme a lei il mondo sconosciuto ad un uomo, dei profili Facebook di una donna e soprattutto dei messaggi che gli uomini mandano alle donne. Allora, vi ricordo che Michela Pesca non ha una foto, ha solo un'immagine fumettistica che è tratta da un disegno di Milo Manara, che lo so che anche se non è una foto è comunque una mossa sporca, ma tante, avevo scelto quella. Dunque, il profilo aveva raggiunto oltre 800 amici, grazie soprattutto all'aiuto di voi che ascoltate il programma, che per renderlo credibile avevate aderito al progetto Fai abboccare Italo all'amo, da cui il nome Pesca. Però in realtà il nome Pesca sta anche per l'altro frutto del peccato, cioè la pesca al posto della mela, ma adesso non sto qui a spiegarvi tutti i sottotesti di quello che faccio, altrimenti facciamo notte. Insomma, Michela aveva 150 nuove richieste di amicizia, un'ottantina di notifiche di ogni tipo tra inviti, eventi, commenti, robe che non capisco manco io, e poi aveva dei messaggi privati. Messaggi privati di posta. Messaggi spediti per lo più da uomini, messaggi ai quali io vorrei dedicare un po' del tempo di questa puntata. I primi messaggi erano quelli di Intesa. Erano i messaggi in cui chi ascoltava all'epoca, o forse ascolta ancora questo programma, aveva spedito a Michela Pesca sapendo di scrivere a me, in realtà. E quindi erano divertenti, erano messaggi complici, no? Però a partire da gennaio in avanti, le persone che hanno scritto a Michela Pesca erano soprattutto sconosciuti, attratti credo dal suo nome, o forse dall'immagine di donna disegnata da Milo Manara sul profilo. Messaggi che ammetto mi hanno gettato nello sconforto. Mentre li facevo scorrere, immaginavo di essere una donna, di avere i capelli lunghi e boccolosi come nel ritratto di Manara, e soprattutto di avere o non avere tutti quegli attributi che rendono le donne diverse dagli uomini. Quegli attributi che rendono le donne agli occhi degli uomini talmente desiderabili da spingerli a scrivere dei messaggi ad una sconosciuta, che tra l'altro non esiste, sperando di adescarla. Mi sono immaginato donna, che magari ha una famiglia o un fidanzato. O magari no. Mi sono immaginato donna che torna a casa dal lavoro, dall'università, dalla scuola, o che invece magari proprio al lavoro, all'università, è lì, al computer, apre il suo profilo Facebook e trova dei messaggi pieni di parole a vanvera, buttate lì da uomini che scrivono chissà da dove, chissà perché, anzi se no in realtà perché è l'unica cosa che si intuisce. E mi sono immaginato donna per realizzare il grado di fastidio, il grado di noia e di scontatezza che possono suscitare messaggi di sconosciuti così assurdi. Ci sono i messaggi telegrafici, come questo ad esempio. Alessandro, 7 gennaio 2011. Ciao bellissima, fai amicizia con me. Oppure Ivano, 24 gennaio 2011. Ciao Michela, vorrei sapere qualcosa di te, così da condividere la nostra amicizia su Facebook. Ce ne sono altri, questo, Gerardo, 3 febbraio 2011. Sai, la tua immagine è molto bella. Va proprio al cuore lui direttamente. Poi ci sono invece quelli che cercano di rendere un po' romantico il loro messaggio. Come questo, Piero, 14 febbraio 2011. Avevo una ex che si chiamava Michela come te. È un bel nome, anche se non ci leggo splendidi ricordi. Ti va di farmi cambiare idea? Eh sì. Oppure Mario, 5 marzo 2011. Ciao splendore. Una con un viso come quello della tua foto. Vi ricordo per inciso che non è una foto, è solo un disegno. Non può che essere una ragazza dolcissima. Hai voglia di regalarmi un po' del tuo zucchero in modo da rendere la mia vita meno amara? Ecco, e poi ci sono invece i professionisti. I professionisti sono quelli che hanno un messaggio o hanno una serie di messaggi che sono già pronti. Quindi fanno, immagino, copia e incolla e li spediscono a tutte le donne che reputano interessanti. Solo che ogni tanto questi professionisti fanno dei piccoli errori. Ci sono dei refusi, magari sbagliano il nome o altri dettagli che però sono fondamentali. Ciao Marta, noi non ci conosciamo, Michela, ma questa Michela, è una grande possibilità. Usiamo internet per capire meglio chi siamo. La nostra chiacchierata in chat mi è piaciuta molto e vorrei capire meglio chi sei e lasciarti capire meglio chi sono. Ciao, Vittorio. Eh sì, Vittorio aveva sbagliato persona, ma mi aveva dato una grande idea. La chat. Per chi ancora non sapesse che cos'è la chat è una finestrella in cui le persone che conosci e a cui hai dato la possibilità di conoscerti possono scriverti dei brevi messaggi che ti appaiono istantaneamente, a cui tu puoi rispondere istantaneamente. E io l'altra sera volevo andare fino in fondo all'immaginarmi una donna. E così ho accettato tutte le richieste di amicizia per Michela Pesca, anche quelle di sconosciuto. E poi ho aperto la sua finestra di chat. Nel giro di pochi minuti Michela ha iniziato a ricevere messaggi che apparivano nella parte bassa dello schermo. Erano delle finestrelle che si aprivano e si illuminavano di verde e di arancione. Il tono più o meno era quello di saluto. Alcuni erano cortesi, altri meno, alcuni erano insistenti, altri no. E poi è apparso lui, Michele. Di Michele non dirò il cognome. Ammetto che Michele è stato quello tra tutti che più ha incuriosito la mia anima femminile. È partito male, a dire la verità, con un "ma tu sei la Michela che conosco", che era effettivamente un po' banale. Poi però si è ripreso molto bene. E ho iniziato a rispondergli in modo distaccato, come solo Michela Pesca sa fare. E la parte finale della chat è andata così. Va bene, ciao Michele, io vado a dormire. Io no. Ah no? E cosa fai? Cerco di capire. E che cosa? Come fare a ricontattarti senza sembrare molesto. Caro Michele, mi sa che sei già stato molesto. Forse hai ragione. Allora sai cosa faccio, Michela? No? Che cosa fai? Ti lascio tranquilla e tolgo il disturbo. Ah sì? Cosa fai? Molli il colpo così in fretta? No, non mollo il colpo. Lo assesto meglio. Sei furbo tu, eh? Non abbastanza per trovare un modo per incontrarti. Beh, allora impegnati un po'. Facciamo un aperitivo domani, Michela? No, così è troppo diretto, poi è scontato. Ma l'unica cosa non scontata era non scriverti. Il resto è già tutto scritto, Michela. Anche che domani ci beviamo una cosa, poi ci salutiamo e magari non ci vediamo più. Mi spiace, Michele, ma non credo nel destino. Ma nemmeno io, infatti queste cose te le ho scritte. Le ho scritte io, nessun altro. Facciamo le 7 domani? Facciamo alle 8. Andata. A domani. Buonanotte, Michela. Buonanotte, Michele. Sì, lo so. Sono un cretino. Lo so, è andata così e bisognerà andare fino in fondo. 349-238-6666, però io mi aspetto anche, e scusatemi se chiedo l'intervento femminile, però mi aspetto che qualche donna chiami e mi dica... E mi dica qual è la sua sensazione, perché stanno scrivendo tantissimi uomini che elencano più o meno cose, devo dire, alcune molto divertenti, altre chiaramente un pochettino più scontate. Però se c'è una donna che magari un'ora fa o ieri sera ha proprio avuto questa intuizione, ecco, ecco qual è la cosa che ci separa, che separa noi da voi. 800240024, anche un uomo, qualcuno che proprio negli ultimi giorni è andato a riflettere su questa cosa e quindi non mi dice semplicemente gli uomini sono così e le donne sono così, ma mi è successa questa cosa e in quella cosa c'è la netta differenza tra noi e loro. 800240024. Il maschio è accomodante, la donna parla credendo di sapere cosa sta dicendo, l'uomo ascolta chiedendosi che cosa sta dicendo la donna. La differenza è che l'uomo pensa e la donna sente. Per me è l'olfatto. Il loro, le donne, è finissimo. Gli uomini capiscono il fuorigioco, le donne no. Makil da Trento. Mia figlia dice: uomini al posto del cervello hanno muscoli, donne al posto dei muscoli hanno cervello. La donna è vendetta fredda, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, più o meno il tono è quello. Mi aspetto qualcuno che l'abbia provato di recente sulla sua pelle. 800240024. Adesso la borsa e poi io sono qui. Poi domenica sono successe due cose. Sapete come sono le mamme, no? Un po' come i papà per le figlie femmine. Quella spensieratezza un po' sconsiderata che si fa. E io che mi ero convinto che i gusti fossero mutevoli. Che quello che ci piace ci definisce. Dice chi siamo e quello che possiamo diventare. Ma voi, esattamente dove siete? Io sono qui è stata la storia di una vita riassunta in 10 mesi di programma, ma basterà una sola sera per ripercorrerla tutta. Giovedì 23 giugno alle 21, nella sede del Sole 24 Ore di Milano, Io sono qui live. Io sono qui live. Matteo Caccia ripropone e racconta una selezione delle migliori puntate della stagione. L'ingresso è gratuito. Per prenotare, inviate una mail a iosonoqui@radio24.it, indicando nell'oggetto 23 giugno e nel testo i nomi e il numero dei presenti. Io sono qui live, giovedì 23 giugno 2011. Un anno di diretta in una serata dal vivo. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo su una strada, proprio in mezzo a una strada, credo dell'Australia, mi verrebbe da dire, o degli Stati Uniti, comunque un posto abbastanza abbandonato da Dio e dagli uomini. C'è la striscia di mezzeria in primissimo piano e questa infilata di strada all'infinito, delle nuvole bassissime e una coppia, due ragazzi con la faccia simpatica. Lei è in piedi con le braccia aperte e lui invece è sdraiato per terra, ha un cappelluccio in testa, guarda una telecamera e alle loro spalle c'è un cartello giallo con una macchina che va in salita. Siamo Mauro ed Annalisa di Pesaro e ci troviamo a Tolavon, un paesino sperduto nel Chubut argentino. Stiamo girando il Sud America in autostop e credeteci, è molto più facile di ciò che si pensi. Io lo consiglio vivamente a tutti, noi siamo qui. Si vede che sono cresciuto con i telefilm americani e i chips, eh. Non sono né in Australia, negli Stati Uniti, è l'Argentina. Io sono qui, @radio24.it. Avete sentito il promo? Si parlava della serata del 23 giugno. Sentiamo un attimo Elisa. Pronto Elisa? Sì, ciao Matteo, eccomi tu, qua. Tu vieni il 23 giugno, vero? Sì, sicuramente. Sarà un po' lunga la strada, però senz'altro. Allora, Elisa, ricordiamolo per chi non l'avesse ancora sentita, anche se ormai è, possiamo dirlo, un personaggio fisso di questo programma, è l'autrice del libro Lungo Inverno di Saffron. Sì, esatto, ne porterò un sacco di copie omaggio. Brava, brava, da distribuire a tutti quanti. Arrivi, esatto. Arrivi da Vicenza, giusto Elisa? Esatto, sì, sono 2 ore di macchina più o meno. Noi abbiamo pensato, ricordiamo anche che Elisa è una metallara doc. Sì, giusto? Esatto. E che ha un debito di 5.000 euro da rifondare del suo ex fidanzato. Sì, però ho avuto novità perché mi ha promesso che questo mese forse arrivano. Senti Elisa, visto che tu c'hai un debito da ripianare di un tuo ex e sei fidanzata, ricordiamolo, con un alpino. Esatto. Nella nostra fantasia malata siamo convinti che tu abbia ben idea di qual è la differenza principale tra un uomo e una donna. Diciamo che la donna fa le cose in maniera un po' più furba, ecco, rispetto all'uomo. Tu dimmi l'ultima cosa che hai fatto furba rispetto al tuo fidanzato a questo punto. Ah, rispetto al mio fidanzato ancora niente, non ho ancora in programma nulla. Niente, non saprei. Sei poco preparata, stai andando al lavoro Elisa? Ho preso una pausa dal lavoro per parlare con voi. Ecco. Brava. Elisa, ti ringrazio molto e ti aspetto giovedì 23 giugno qua, alla sede di Radio 24. Grazie a te. Buona giornata. Ciao Matteo. Ciao, grazie. Scusate, qualche messaggio prima di sentire altre telefonate. Secondo me non sei normale, ma non so perché. Paolo, mi chiamo Matteo. Beh Paolo, sputanare il genere di cui fa parte dice molto del tuo carattere. La brutta figura la fai tu, forse qualche problema è risolto. Questo deve essere uno di quelli che pensa ad esempio che parlare male dell'Italia non si possa fare, altrimenti se ne dà una brutta immagine. Coordino un gruppo di 19 donne, ti garantisco che la cosa più difficile è ascoltarle. Gli uomini si radono dal collo in su, Patrick. Loro creano problemi anche dove non esistono, noi li vediamo anche dove non ci sono. Andiamo da Sara da Milano, pronto Sara? Ciao, sono Sara. Ciao, io sono Matteo, quindi siamo a posto. Perfetto. Allora, raccontami. Niente, secondo me la differenza è che le donne in media mettono al centro della loro vita le relazioni, mentre gli uomini mettono al centro della loro vita il denaro, il potere, la carriera. Quanti anni hai, Sara? Io 43. E hai delle storie terribili alle spalle? No, assolutamente, anzi un rapporto molto felice, per fortuna è stata molto fortunata. Che lavoro fa tuo marito? O il tuo compagno? Lui è bibliotecario, io sono ricercatrice. Dove? Che cosa ricerchi? In campo oncologico. E quindi clinico? Ospedale? Sì. O universitario? Cioè, all'ospedale. Di Milano? Sì. Sì. Benissimo. Sara, vieni il 23 di giugno? Sì, può essere di sì. No, aspetta un attimo, come posso? Ascolta, ti dico un piccolo segreto, Sara. Tanto io non mi ricordo alla fine se vieni o meno, per cui dimmi certo che vengo. Certo, vengo. La differenza tra gli uomini e le donne. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. E poi c'è un altro ascoltatore che io vorrei sentire, perché è da tanto che non lo sentivamo. Lui è un po' come Elisa. Diciamo, c'è una parte femminile dell'ascoltatore di questo programma che è Elisa, e c'è una parte maschile degli ascoltatori di questo programma che vive a Catania e si chiama Giacomo. Pronto Giacomo? Ciao Matteo! Come stai? Ma diciamo che ci difendiamo, no, al solito. Che succede, ho Giacomo? Ho dei piccoli problemi di acido urico perché sono stato un pochettino monellino negli ultimi tempi. Cosa hai combinato? Diciamo, adesso ho eliminato il sale, anzi limitato al sale della farmacia. Comunque il discorso della differenza tra uomo e... Esatto, Giacomo, io lo chiedo a te perché ricordo, per chi non l'avesse sentito, che la prima volta che ci siamo sentiti io ti ho detto come va con tua moglie, quanto ci parli, e tu mi dicesti il necessario, giusto, sto uscendo o sto tornando. Sì, il necessario, è da parecchio tempo che si dice il necessario. Solo il necessario. Indispensabile, perché dopo molti anni che siamo insieme si sono esauriti un po', in un po' gli argomenti, le parole. Certo, immagino. Giacomo, senti, qual è l'ultima volta che hai detto ti amo a tua moglie? Dunque, l'ultima volta che va forse da ventina d'anni fa, anche se in effetti nel cuor mio glielo vorrei dire più spesso. E allora Giacomo, fai una cosa e poi ti saluto. Diglielo adesso in onda. Carmela, ti amo. Grazie Giacomo. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie. Leggiamo un racconto che è arrivato oggi, il racconto che vi racconta. Io sono qui, @radio24.it. Ci sono dei giorni in cui il Ticino ci chiama. Sono quei giorni che corrispondono allo scioglimento delle nevi e generalmente sono compresi tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Io scendo in bici. Beppe, anzi il Beppe, di solito è già lì. Siamo di fronte alla Paladella, un cuneo di circa 200 metri in granito. Separa le acque del fiume Ticino dal Naviglio Grande. In estate possiamo camminarci sopra. Oggi ci sono almeno 50 centimetri d'acqua. E domani anche di più. Porta le pinne, mi dice Beppe. E domani sono le 6 del pomeriggio, ma il sole è ancora alto. Siamo in piedi, di fronte alla Paladella, e c'è almeno 1,5 metri d'acqua. Io ho le pinne. Percorriamo il prato a monte, fin dove è possibile tuffarsi. L'acqua è ancora molto fredda. Ha il sapore della neve, come solo succede in questi giorni. Grazie a tutti, grazie a Tiziano Bonini, a Roberto Scaltritti, a Viola Bottoni e a Stefano D'Andrea. L'appuntamento è il 23 di giugno alle 9 qui nella sede di Radio 24, via Monterosa 91. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?